Eccoci qui, ciao a tutti, siamo alla decima e ultima puntata del rovescio della medaglia. No, questo bisognava farlo in coro però. Ripetiamolo, del rovescio della medaglia. Fantastico questo. Questa, abbiamo scelto per questa sera una sigla un po' anomala. Sì, sì, però comunque a tema, che un po' rappresenta quegli anni, se vuoi ve la spariamo a tutto fuoco di nuovo. KC and the Sunshine Band, Shake Your Booty, e volevamo così un po' dare un... volevamo voi prog addict che ci seguite... solitamente usiamo sempre inserire, cioè mettere all'inizio del nostro fantastico programma comunque quella che è la sigla da noi scelta in qualche modo a tema. Invece oggi un po' così, sì, siamo ancora in clima di festa, in clima ultimo dell'anno, natalizio, poi c'è la Befana, poi ci sono un sacco di c'è il ponte della Befana, quindi siamo ancora in clima di festa. Oh, deve ancora arrivare il ponte della Befana, sì, proprio vabbè, 12. Arriverà. te fai tipo ponte di Messina, un qualcosa che non finisce mai, cioè comincia ma non finisce mai. È passato il 2016 finalmente, che ha mietuto vittime. Si dice mietuto, sì. No, cioè non è a me non è la grammatica cioè, però se te parli del ponte di Messina che tutti promettono e mai fanno, ora anche noi faremo il ponte di Messina. Capito? Cioè, io parlavo del ponte, sembra della... una promessa quasi renziana, sembra il ponte, capito? Della Befana, diciamo. Ah, però vabbè, cioè, se siamo a martedì e la Befana in teoria è sabato domenica, sembra quasi una promessa renziana. E se te ti senti renziano, colpa tua, cioè nel senso... No, renziano sarai te. Prog 12, io ti ho semplicemente vabbè, fatto piano, presente piano. Che le tue promesse sono di natura renziana. Ora, che te lo scarichi su di me, questa identità renziana, io non sono renziano... Però quantomeno vabbè, ti faccio presente, giochino, non fare promesse, ecco, semplicemente non fare promesse. È come il giochino, come da piccoli, quando vedevi una suora che toccavi l'amico e dicevi tua, suora, ah, tua, e tipo in Monopoli, Renzi tuo, Renzi in Monopoli, tuo. Tipo in Monopoli. No, che era tipo una sfiga che te lanciavi all'amico, lo toccavi e gli dicevi sfiga tua, ma quello suora, era tua. Era palla avvelenata, sì, una cosa di casa palla mia si chiamava palla avvelenata. Però a noi si faceva con le suore. Ok. Prog 12, stasera voglio dare il benvenuto a una delle figure storiche degli ascoltatori più fedeli e sinceri della nostra trasmissione. Certo. Che da Quinto Alto è venuto direttamente qua in trasmissione ascoltarci. Scusa, in realtà è Quinto Basso. Ah, ma non era... per sminuire, perché... Scusa, Prog 12, te mi hai detto in macchina che era Quinto Alto. No, era Quinto Basso. Quinto Basso, ci confondiamo con Bergamo Alto e Bergamo sì, Basso. Sì, ma non è che uno deve sminuire, che uno è alto, uno è basso, no? Cioè, è solo una posizione geografica. Non vabbè, è... diciamo che il nostro ascoltatore di Quinto Alto Basso comunque ha una statura media, sicché il compromesso storico... Compromesso storico è che abbiamo un ascoltatore di statura media, che sia di Quinto Alto o di Quinto Basso, dato che ha una statura media, no, non fa più testo in qualche modo. Va bene. Comunque è qui in studio con noi Stefanino, e diamo il benvenuto a Stefanino, che viene a salutarci ai microfoni, nonostante lui si era accuratamente... Cioè, si era appena arrivato, ha detto: ragazzi, non dite nulla di me, e noi ce ne è importato una sega e gli diamo il benvenuto caloroso a Stefanino. Stefanino, vieni a salutare. Sì, ciao, buonasera ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come avevo detto, non dire niente, invece subito mi avete... E Stefanino, ti sei dato con la zappa sui piedi. Se tu dicevi presentatemi a furor di popolo, noi si diceva no, questo si tira le arie, questo si vanta di non so che, non ti presentavamo. Ti sei presentato umilmente e questo è il prezzo da pagare, capito? Sappilo. Hai ragione. No, in realtà vi volevo ringraziare, ragazzi, perché è un onore essere qui e vedervi, insomma, in diretta, condurre questa trasmissione, a mio parere molto interessante, simpatico, tiene molto compagnia, vi voglio fare i complimenti, insomma. E Stefanino farà... grazie, ma gli applausi non ce l'abbiamo stasera. Gli applausi ora li trovo. li trovo, dove sono? Un budino in scrivania, vero? Comunque dicevamo, vabbè. No, noi nemmeno, dicevamo budino, no budino, Stefanino è venuto qua per... Stefanino è venuto qua per... Non per la rubrica della settimana, no, nemmeno. No, è venuto come pubblico. Come pubblico. Come pubblico, come ha vinto, come fedele ascoltatore, ha vinto un biglietto per assistere al rovescio della medaglia qui su Radio Wombat. Ok, perché questo, diciamo, cioè, questa è una sorta di concorrenza sleale, per il semplice fatto che in qualche modo... tipo che ne so, a Controradio dicono venite in trasmissione ultima tessera di Controradio, noi invece ci abbiamo venite in trasmissione e si condivide qualcosa insieme, no? Nel senso, una birra, due, tre. Sì, va bene. No. Benissimo. No, non diamo tessere, non diamo tagliandi, non diamo niente. Vabbè, magari regaliamo una tessera in più che abbiamo. Gli sconti del circo. Ah, è vero, c'è il circo Orfei a Sesto Fiorentino. Se volete andare, Stefanino è arrivato con una pacchettata di biglietti omaggio che ha raccattato al semaforo che gli hanno dato. Stefano Togni del circo Orfei. Stefano Togni, che ormai la famiglia è fallita, che è subentrato la famiglia Orfei, e quindi Stefano ha detto vai. Qua in qualche modo bisogna sopravvivere e quindi portiamo c'è stata la reazione di Stefano appena ha sentito Orfei, è impazzito, è successo qualcosa di strano. Stefano, scusate. Stai calmo, ti chiediamo scusa e chiediamo scusa anche a coloro che ci ascoltano, perché Stefano appena ha sentito Orfei, concorrenza sleale, è cascato un microfono e ha detto no, questo non mi sta bene. Allora, benvenuti a tutti, questa è la decima puntata. Questa la decima è la... puntata del rovescio della medaglia. La decima però puntata. Siamo arrivati alla Z, ma non sarà l'ultimissima puntata, perché dopo una breve pausa di una settimana. Diciamo anche in diretta, ti saluta Stefanino, ti saluta Nenia. Ci ha appena scritto che ti saluta, ti manda. Ah, la Nenia saluta Stefanino. La Nenia, quindi... di quale programma? Prog 12, ricordaci? Del rovescio della medaglia. No, la Nenia non fa il... No, io c'ho questa. Io come jingle c'ho solo questa. No, è la Nenia, la conduttrice dell'Accademia della Brusca. Ve lo dico così. Io c'avevo questo. No, dovevi capire. No, ci sono rimasto male, perché non è che ha salutato noi, ha salutato il nostro ospite. Prog 12, devi ricordarti che nella serie di tuoi colleghi che fanno parte del Jobs Act c'è anche Nenia DJ. Sì, la DJ vocalist dell'Accademia della Brusca, ricordiamo. È lei che mi ha mandato un messaggio in diretta, sai, come nelle migliori radio, tipo, che ne so, te a Radio Maria mandi un messaggio, vorrei dedicare... Questa canzone al Papa. Vorrei dedicare una canzone al Papa, e il Papa risponde in diretta... Grazie Maria, tu dedica capito? Quindi la Nenia, che è una tua collega, ha mandato un saluto speciale a Stefanino, che è qua stasera in trasmissione con noi, capisci? No, no, mutismo. No, no, stavo rispondendo a numerosi ascoltatori che ci mandano dei messaggi per PVT. Via diretta, ancora non abbiamo un numero di telefono pubblico. Comunque, io partirei andrei nel vivo della nostra trasmissione presentando il primo gruppo. Ci siamo. No, io condivido sempre. Più che altro, cioè, è che stasera i giochi li dirige Stefanino, sicché Stefanino mi comanda, dice fai quello e fai quell'altro. Allora, io... Stefanino ha detto Stefanino che intervieni, andare... Stefanino intervieni e dacci un tono di serietà, di rigore a questa trasmissione. Cosa devo fare, Stefanino? Ma direi di partire al primo pezzo a questo punto. Ok, allora... Il primo pezzo che presentiamo oggi è... Chi sono? Non mi ricordo. Sono i Samasasas. I Samasas. Sono i Saint Just. Prognosi, sono i Saint Just. I Saint Just. Just. I Saint Just, dove c'è anche... Vado. Ok. Ci siamo, abbiamo il primo pezzo dei... Sì, sono un gruppo, mi sembra. Sono un gruppo. Mi sei ingiusto, dove c'è anche la sorella del celebre Alan Sorrenti. Ma dai! Stefanino, ti ricordi un pezzo di Alan Sorrenti? No. Ah, sì, vorrei incontrarti tra 100 anni. Vorrei incontrarti tra 100 anni. Vorrei sicuro incontrarti Sorrenti. Sì, sì. Sì, poi dopo il celebre Figli delle Stelle, ma insomma si parla di altri anni. Guarda, però vorrei incontrarti, forse si chiama, solo vorrei Prognosi, di qualsiasi tema, di qualsiasi personaggio parli, ha sempre il suo asso nella manica. E quindi? E quindi... Farei sentire il primo pezzo dei già. No, dei Saint Just, ma non ho detto niente dei Saint Just. Ah no, dicevi della sorella di Alan Sorrenti. Cioè, questo era l'inizio della biografia dei Saint Just, dove c'è la sorella del celebre Alan Sorrenti. Certo. Che, ok, i Saint Just cominciano come trio, che sono diciamo prevalente acustici, e nella loro carriera hanno fatto 2 album, il primo che è classico omonimo, che rappresenta quello che è l'icona prog di omonimare solitamente il primo gruppo, che si chiama Saint Just appunto, e il secondo album è La Casa del Lago del 74, mentre l'album omonimo, come non abbiamo detto prima, è del 73, e quello che abbiamo scelto noi è del primo album, che si chiama che vi manderemo ora, che si chiama Il Fiume Inondò, dall'album Saint Just. Thank you. Quando il fiume inondò paesi, monti e città, in un grido di terrore tonò nell'aria marcita. Disparsi nell'acqua galleggiavano inerti. Yeah. campi di sole. Ok, loro erano i Saint Juice con il fiume in ondò, e abbiamo con i Saint Juice apriamo la decima nonché ultima puntata del rovescio della medaglia. E Prog 13 e mezzo confermerà le mie affermazioni. Allora, confermo le tue affermazioni, però vorrei ricordare che dopo la pausa del 10 gennaio, se non mi sbaglio, sì. Facciamo una pausa il 10 gennaio e poi ripartiremo il 17 gennaio con uno speciale su Emerson, Lake e Palmer. Non solo sul gruppo Emerson, Lake e Palmer, ma su il singolo Emerson, dove suonava Emerson, dove suonava Lake e dove suonava Palmer. Vuoi darci qualche anticipazione? Ti metto mi metti in difficoltà? Vabbè, ovviamente Lake ha fatto, mi sembra, i primi due album con i King Crimson. Emerson con il gruppo Nice. E Carl Palmer, il batterista, con gli Atomic Rooster. Accidenti. Pensavo, non te l'aspettavi, pensavo di fotterti, invece no. Invece ero preparato su questo. Poi il resto non mi chiedere niente, perché no, non so come andare avanti. Però io andrei avanti a questo punto con... Stai calmo, Prog 12, diamo qualche informazione utile per chi ci ascolta. Allora, per chi ci ascolta diamo le solite informazioni sul nostro sito wombat.noblogs.org. Il nostro account twitter.com/radiowombatfi, su facebook.com/radio-wombat-firenze, la nostra mail che è postawombat@insiberia.net. Ok, bene, andiamo avanti con la diciamo quello che è la scaletta dell'ultima puntata. Quale scaletta? Non c'era una scaletta Prog 12, sì, no? Allora siamo alla lettera S e stasera arriveremo alla lettera Z. Sì, in effetti, cioè siamo, come abbiamo detto prima, siamo all'ultima puntata del traditional rovescio della medaglia. Traditional mi piace molto, del traditional rovescio della medaglia. E con oggi abbiamo cominciato dalla lettera S, con S come Roma, e abbiamo presentato i Saint Just, il prossimo gruppo che presenterà Prog 12. Il prossimo gruppo sono i Samadhi. È un gruppo che ho... I Samadhi? Sì. Okay. No. Avevo fatto un salto. I Samadhi. Sì, allora, aspetta Samadhi che... e dopo Semiramis. In ordine alfabetico funziona così. Aspetta, che mi ero messo. È colpa del nostro prog addict Stefanino. Che Stefanino ci ha fatto la sorpresa. uno dei 17.724 ascoltatori è venuto qui in trasmissione da noi e ci ha mandato in panico, cioè non è mandato in paranoia totale. E Stefanino, a questo punto scombinato... prendi te in mano la trasmissione, mandala te, presenta i gruppi. No, a livello emotivo ci ha scombinato, però la scaletta ce l'ho in mano. Quindi il prossimo gruppo che presentiamo sono i Samadi, che sono un gruppo che ha fatto un unico album. E praticamente i Samadi si sono formati dopo lo scioglimento dei Raccomandata con ricevuta di ritorno. Non so se vi ricordate. Che abbiamo presentato nella precedente puntata. Sì, sì. E facevano parte anche il batterista Ruggero Stefani dell'Uovo di Colombo, che abbiamo presentato nelle altre puntate, e ha avuto una vita brevissima perché praticamente hanno pubblicato questo LP e si sono sciolti. Come tanti è successo, chi partiva militare, chi aveva dei problemi in famiglia, chi aveva litigato tra musicisti, chitarristi, chi si rubava gli impianti, che tutta una serie, diciamo, di cose. Anche chi era latitante, oserei dire. Ma non credo, guarda, no. Che tra questi gruppi. Vabbè, perché in quegli anni la latitanza era all'ordine del giorno. Ma allora io lancerei un quizzone. Come si chiamava il primo album dei Samadi? Ok, apriamo dopo il logo contest di Radio Wombat, il secondo contest, o quantomeno la seconda gara, o il quizzone. Come si chiamava il primo e unico album dei Samadi? A voi. Chiamateci in diretta e oppure scrivete sul nostro indirizzo di posta elettronica postawombat@insiberia.net. Comunque avete 3 secondi, 1, 2, 3, si chiamava Samadi. Ha vinto Stefanino che in diretta ci ha detto Samadi. Samadi e ha vinto l'ennesimo album omonimo. Ha vinto una fantastica giacca Harrington, modello Harrington. Che taglia c'hai, Stefanino? La più piccola. La più piccola? Una M. La più piccola. Esiste la taglia più piccola? No, diamogli una M, dai. Vediamo, Stefanino? Sì, va una bene. M gli sta bene. Comunque, ha vinto una fantastica giacca modello Harrington. Puoi scegliere i colori tra verde oliva, rosso porpora, nero, blu cobalto, scegli te, dopo vai in redazione e puoi prenderti, puoi ritirare la tua fantastica. Aspetta che riprovo, fantastica, hai vinto la tua fantastica giacca modello Harrington, che come ricordiamo bene usavano gli skinheads negli anni 70, ma anche oggi. Va bene, via. Dicevamo dei Samadi, posso dire Samadi. Un fantastico aneddoto dei Samadi? Ma certo, 12. Proprio mi togli le castagne dal fuoco, guarda. Anche perché poi si bruciano. Ok. Dei Samadi ho scoperto che io personalmente mi piacciono molto il vinile in sé, il vinile mi piace, sono un piccolo collezionista, e dei Samadi ho scoperto che, diciamo, la particolarità dei Samadi per me personalmente è che detengono il primato, ossia, o quantomeno il record del valore di vinile dei Samadi, ossia del valore di vinile di mercato, come Stefanino mi ha ricordato prima, ce l'ha questo vinile, infatti ora in soldoni, prima che va via lo sequestriamo e ci facciamo dare il vinile. Praticamente ho scoperto Prog 12 che il vinile è l'unico album dei Samadi che si chiama Samadi, come ha vinto la fantastica giacca modello Harrington Stefanino, Questo album lo vendono a 6.000 euro. Non in lire lo vendono ancora? No, in lire sono 12 milioni più o meno, capito? Quindi lo vendono a 12 milioni di lire. Non con la valuta del 75. No, la valuta del 75, sì, cioè, ossia te lo puoi acquistare sia con la valuta del 75 sia con l'euro. Scegli te, se te a casa ti sei conservato 12 milioni delle vecchie lire, te lo compri in lire, se no te lo compri in euro, capito? Oppure non lo compri per niente, no, non ti cambia niente. Vabbè, però, cioè, fai, capito, apri un mutuo alla Monte dei Paschi di Siena, che sappiamo benissimo che Monte dei Paschi di Siena oggi come oggi faville proprio. Fa faville, vai lì e chiedi 6.000 euro e non gli... Buon anno a tutti, diamo il buon anno a tutti. Diamo il buon anno a tutti, perché non ci sentivamo dall'anno scorso noi. Questa è la prima puntata del 2017. 2017, non mi veniva l'anno. Non gli vengono le parole a Proguno. Non mi veniva l'anno perché io sono rimasto un po', sono rimasto indietro con gli anni e nostalgico. E quindi buon 2017 a tutti E tante castagne, ci stanno inviando i nostri ascoltatori delle castagne, non so per quale motivo. Però io aprirei una piccola parentesi, cioè i castagnaroli, coloro che voi trovate agli angoli dei vicoli delle città... Nel 1876. Ma no, Prog 12, questo è un problema attuale, cioè che c'è una mafia dietro i castagnaroli, cioè ossia... E tutti i castagnaroli che voi trovate a giro negli angoli dei vicoli adiacenti alle più belle piazze d'Italia, c'è una mafia dietro, capito? Quindi sono i mafiosi delle castagne. Io mi dissocio da queste affermazioni. Eccoci. Stefanino dice lascialo perdere, non gli dare retta, quindi... Non so perché siamo cascati nel ginepraio dei castagnaroli. Comunque Stefanino ci ha portato un cartoccio di castagne, di calda arroste, calde, per riscaldare la nostra serata qui. Dove le hai prese, su Radio Stefanino? Wombat. Dove le hai prese? Stefanino? L'ha prese all'angolo, lì alle 10, presente lì, in Piazza delle 10. Andiamo avanti con la trasmissione e vi presentiamo pezzo dei Samadhi dall'album omonimo, il brano Silenzio. Thank you. Partito. Ok, bene bene bene, erano i Samadhi, che abbiamo come i prog addict che ci seguono, tipo Stefanino, che ha scelto personalmente di venire in trasmissione stasera, e questa era una sorta di mini suite autoprodotta, e loro erano i Samadhi, e che abbiamo ascoltato in una successione che non era quella prevista, però abbiamo presentato Silenzio e Passaggio di Via Arpino, che state ascoltando ora. Sul Passaggio di Via Arpino si sentono delle influenze un po' più jazz, rock, funk, perché chiunque è passato per Via Arpino almeno ha fatto un assolo di almeno 15 minuti di batteria, si è fermato in tutte le Via Arpino d'Italia con la propria batteria, ha fatto 15 minuti di assolo. Ok. E ricordiamo ancora, ricordiamo questo fantastico aneddoto che ci lega ai Samadhi, ossia chiunque di voi scopre nel proprio così angolino dei dischi, dei vinili, che i Samadi avevano questo disco, che era la copertina li contraddistingue dagli altri gruppi prog, perché, come abbiamo detto nelle precedenti puntate, i gruppi prog si contraddistinguono in qualche modo per le loro fantastiche copertine, che sono abbastanza artistiche e abbastanza, diciamo, quello che rappresentano quello che è l'arte metafisica. E quindi diciamo, anche a livello così di collezione, da un punto di vista prettamente artistico pittorico, merita averle. E mentre i Samadi, questa la copertina di questo unico album, che come si chiama? Prog 12? Samadi? Bravo, bravo, grazie, bravo, grazie. E paccata sulla spalla, non prevista ma concessa. Quest'album, se non ricordo male, deve avere un colore tipo rosso porpora con un 3 con una virgoletta, che sarebbe il simbolo dell'OM. Ce l'hai presente, Prog 12? Te che no, ero così che stavo dicendo sti cazzi. Te negli anni 70 mi sa che certo. ti tatuasti sul braccio il simbolo dell'OM, no? Certo. No, infatti mi era uscito uno sti cazzi proprio gigante. Perché Stefanino mi ha appena raccontato che lui nel 73, quando andò a fare un viaggio in India, si tatuò l'OM anche lui sul braccio, però poi col raggio laser te lo sei rimosso, vero Stefanino? Sì, ora non c'è più. Sì, dice che ora non c'è più. E l'ha sostituito da una farfalla, non si dice dove, ma... dall'amorfo, la farfalla blu. Perché Stefanino, cioè lui, quando arrivò alla Monte dei Paschi di Siena come dirigente, gli dissero: o ti cancelli l'OM che c'hai sul braccio o non ti assumiamo. È vero o no, Stefanino? È vero, è tutto vero, dice che è tutto vero. Lo sto traducendo io dal dialetto toscano all'italiano. Al dialetto toscano. E quindi quest'album, che è molto, perdonami Prog 12, che è molto banale nella sua rappresentazione grafica, ricordiamo dell'umile costo di 6.000 euro, e questo album è rappresentato da questo 3 con una virgoletta che rappresenta l'OM, e questo album ha l'umile costo di 6.000 euro, sicché sappiate che se vendete quest'album costa quella cifra. E chiudiamo con i Samadi. Bene, io volevo fare un attimo un appello. Come un appello? Per il nostro Wombat Logo Contest. Disegna il logo per Radio Wombat. Questo è un bando di concorso che abbiamo, come si dice, stipulato. Prog 12, che lavori con l'Unipol. Stipuliamo un'assicurazione che garantirà il vostro futuro. Stipuliamo un bando. No, abbiamo lanciato questo bando che praticamente vi invitiamo a disegnare o a creare in qualche modo il logo della nostra radio. Quindi è una cosa importante, voi potete essere i creatori del logo della nostra radio e potete mandare il vostro disegno, la vostra cosa grafica. In che formato? In qualsiasi formato, basta che sia decente, nel senso che si possa ridurre o ingrandire quanto vogliamo. Al nostro indirizzo di posta elettronica, che è postwombat@insiberia.net. Vabbè. No, vabbè. Cioè, Poi dopo diciamo, avrete, posso, tutte, avrete siccome tutte. Siccome ho già una quindicina di bozze all'attivo, posso mandarle anch'io, no? Diciamo, essendo parte attiva, integrante di questa radio? Certo. Però, rispondi, era una domanda, non lo so, però ti stavo... No, è una domanda retorica, però è una domanda. No, dico, comunque affrettatevi per mandare i vostri disegni, le vostre grafiche, le vostre pitture. Proprio 12, scusa, affrettatevi, fino a che il termine di scadenza, pseudo termine di scadenza, no, il termine tassativo di scadenza è il 22 febbraio 2017. ci stanno quasi 2 mesi. Sì, ho capito, ma non è che uno fa due schizzi. Metti fretta, cioè, guarda, cioè, come diceva un famoso scrittore barra artista, l'arte creativa non è un'arte continuativa, è quell'impulso che ti arriva nel momento e te lo esprimi. Cioè, se te dai delle date, dai delle scadenze, te metti solo ansia, paranoia e delusione in coloro che esprimeranno la propria arte nel rendere grafico, nel rendere visibile al resto del mondo quello che sarà il logo della radio, capisci? Va bene, allora aspettate che arrivi la luce verso di voi e che vi lanci questo logo e aspettate fino all'infinito. Però sapete che il bando scade il 22 febbraio 2017. Quindi ricordatevi che entro il 22 febbraio del 2017, sì, l'hai scelto te l'anno, ammettilo proprio. No, l'anno è questo, cioè, siamo nel 2017. No, perché sai, cioè uno dice, no. 2019, ok, no, 2017, sappiatelo, sì, perché... Facciamo i conti al volo. Stefanino, quanti giorni mancano al 22 febbraio del 2017? Io traduco. Però 45 giorni circa, dai. Avete 45 giorni per spremere. Allora, sono arrivati. Meningi. Si deve dire che sono già arrivate delle proposte di logo bellissime. Quindi impegnatevi perché la concorrenza sarà sleale. No, Prog 12, fammele vedere. E ora dopo te le faccio vedere. Ha dimenticato il computer a casa, diciamo la verità. Ha dimenticato il computer a casa. Non ha portato, non nemmeno, c'ho le battute scritte. Non ha portato nemmeno i fogli che lo contraddistinguono, perché nelle puntate precedenti Prog 12 arrivava con i suoi fogli tipo che ne so, Cossiga quando nei momenti di estrema emergenza di stato, tipo la bomba alla stazione di Bologna, così. Prog 12 arrivava con i suoi fogli in stile cossiganiano, si può dire cossiganiano? Ma secondo me è meglio se non lo dici. Vabbè, cioè, no? Che fa la censura? No, non capisco quello che dici. No, che Prog 12 oggi non è arrivato con i suoi fogli che lo contraddistinguono. Solitamente arriva Gobbo con gli occhiali da vista, anche se non ne ha bisogno, visto che ha una vista da rapace, però arriva con gli occhiali così che gli ricordano un po' gli anni 70, quando lui militava nei gruppi prog più all'avanguardia dell'epoca. E oggi invece è arrivato solo con il suo bicchiere di luppolo e quindi vuole la rivincita, ma non è così. Silenzio tombale. Vabbè, no, c'ho solo questo foglio. Cioè, lui si è fissato con questo logo contest, va bene. Vabbè, comunque è importante, portateci delle idee, portateci dei loghi, non so se si può dire loghi, se la brusca me lo consente. Loghi non loghi. Dei logos, come si dice? Los logos. Los logos. al nostro indirizzo di posta elettronica, che non vi ridico, se no mi sparo in testa. Avvisiamo anche Ginox che stiamo fumando in regia, quindi comunque andiamo avanti con la trasmissione e andiamo avanti con quale pezzo, Prog 1, eh? Dai, con quale pezzo andiamo avanti? Il prossimo gruppo che presentiamo sono i Semiramis. I Semiramis, come tanti di voi sapranno, i Semiramis, ossia Semiramis, era una dea babilonese. E nel gruppo dei Semiramis c'erano i fratelli Zarrillo, tra cui il famoso Michele Zarrillo, che tutti conoscete, che tutti triste, lo stavo dicendo, Prog 12, che tutti tristemente conoscete come Michele Zarrillo. Ora voglio che Prog 12 mi canta un pezzo di Michele Zarrillo. Non li conosco, i pezzi di Michele Zarrillo non li conosco. Chiediamo l'intervento dal pubblico. Stefanino, cantaci un pezzo di Michele Zarrillo. Sono un elefante, sono una formica, che era? Ancora. No, non mi ricordo, c'era qualcosa con l'elefante, una formica, una farfalla, ecco. No, l'elefante e la formica erano una barzelletta. Vabbè, no, non vabbè, lasciamo perdere. C'è una rosa blu. Questo era un pezzo di Zarrillo, capito? Come faceva, scusa? Una rosa blu. E poi? Vabbè, non ti basta il ritornello. No, era bellissimo. Il ritornello perché per ricordare Michele Zarrillo. Quindi. Ma è morto? Non lo so, sarà morto? Sai, questo 2016 2016 si è portato via da un pezzo dell'Armata Rossa, passando per George Michael e finendo per David Bowie, Emerson e Lake no, calma, perché no. Si è portato via una parte di Emerson, Lake & Palmer. No, Emerson e Lake. Appunto, cioè, no, è rimasto... Palmer ancora... È rimasto ancora Palmer, che con le dovute forme di scaramanzia è rimasto ancora vivo. È vivo, lotta insieme a noi, capito? Comunque... Dove eravamo? Io andrei avanti con i Semiramis di Michele, dei fratelli Zarrillo. Dei fratelli. E come si chiama questo pezzo? Come si chiama? Un attimo, se li stavo presentando, te mi interrompi. Dei fratelli Zarrillo dirige il maestro Prog One. Suona strano, no? I fratelli Zarrillo del 73, che uno può dire come i fratelli Fioravanti, quindi sono un po' quelle strane fratellanze che portano poi, che sfociano in vari ambienti. I fratelli Zarrillo in questo caso sfociano in quello che è la scena prog italiana. E i Semiramis, anche loro, fanno un unico album che si chiama Dedicato a Fratz, del 1973, che potremmo dire altro, Prog 12. Ma io, guarda, farei parlare questo album al posto nostro, perché comunque ha tanto da dire e noi poco da dire sui fratelli Zarrillo. Va bene, Prog 12, che facciamo? Li mixiamo? Ma mixali, sì, mixali. Facciamo un grande mix. Di cui sempre per la serie Suite Autoprodotte, per finanziarci, per salvare la nostra dignità e non solo, vi mandiamo dietro una porta di carta è Fratz, dall'album, che ve lo dico subito, dall'album dedicato a Fratz del 1973, e loro sono i Semiramis. E ste cazzi. Thank you. bene, bene, bene. Avete appena ascoltato i Semiramis nel primo e forse unico mix di una sorta di suite autoprodotta da parte di Prog 12 e mezzo, che si è offerto volontario per mixare, per diciamo dopo alla decima puntata si è degnato di fare. Ho fatto un mix, però c'è stato qualche intoppo. Si è degnato di fare una suite autoprodotta, e che fino ad ora sta campando di rendita, perché tutte le suite autoprodotte fino nelle precedenti 9 puntate e mezzo erano da parte di Prog 1. Quindi il Prog 12 ha detto bene, bene, ora condividiamo un attimo gli utili, i ricavi derivanti dalle nostre suite autoprodotte, e quindi si è offerto volontario per fare questa suite, e questa è opera sua, di Prog 12. Loro erano i Semiramis. I Semiramis. Ricordiamoci che erano i fratelli Zarrillo che in qualche modo mandavano questa band, di cui cantante, e quindi conserva ancora il suo ruolo che poi ha portato avanti negli anni nella sua carriera, più o meno condivisibile, diciamo più o meno che più, sono una sorta di espressione algebrica. Dei fratelli Zarrillo bene, io andrei a Prog 12 oggi c'ha fretta, non so perché c'ha fretta, no? A presentare no, non è che ho fretta, però andrei a presentare il prossimo gruppo che io sono uno. Potete però cosa stanno ascoltando di sottofondo, Prog 12. No, stiamo ascoltando il sottofondo un pezzo di Frank Zappa, We Are Not Alone. Era questo simpatico motivetto, che mi piace dirlo. We are not alone, non siamo soli, non siamo a caso soli. Stasera non siamo soli. Non siamo soli, c'è con noi Stefanino! Grande Stefanino, dacci un saluto in diretta ancora, per dimostrarci che ci sei. Diretta Womba! Ok. In verità io avevo scelto di Frank Zappa, diciamolo, nel pomeriggio ci siamo incontrati con Prog 12 negli studi di Wombat Radio, e avevo scelto Tengo una minchia tanta, che era un altro pezzo di Frank Zappa, dell'album The Dub, qualcosa del genere, visto che Frank Zappa ha fatto una miriade di album, sì, che non gli stai dietro. Milioni di album. Però abbiamo scelto questo pezzo che era solo strumentale, quindi come sottofondo ci piaceva. Gli diamo poi ancora siamo un... solo. Li facciamo ascoltare. Dai. Bene, bene, bene. Il prossimo gruppo che andiamo a presentare, Prog 12, si è preso l'onere di presentarlo. Allora, il prossimo gruppo sono i Sensitiva Immagine, che sono uno dei pochissimi gruppi progressive di Prog Bologna. 12, perché non hai stampato i tuoi fantastici fogli oggi? Perché avevo finito il toner. E quindi ve lo sto leggendo dal telefono, ma siccome ho una certa età faccio difficoltà a leggere tutto dal telefono, perché cioè, dovete sapere che c'è un computer per leggere informazioni così, e ce l'ha solo Prog 1. Prog 12 e mezzo, Prog 17 e mezzo non hanno niente. Però vi posso dire una cosa molto interessante, che questo gruppo si è formato a Bologna, uno dei pochi gruppi di Bologna, nel 1975, quindi un po' sul finire dell'onda prog, e ha realizzato solamente una cassetta, cioè quindi una... Che te hai, immagino, vero? Cioè, sì, ce l'ho, ma registrata da un mio amico. Non è che quando andavi a buttare la plastica e il vetro hai buttato pure la cassetta? No, ce l'ho ancora. L'ho nella tenuta... campana del vetro? No, non si buttano nelle campane del vetro, ma si tengono le cassette, che ora ho visto anche Tiziano Ferro ha stampato una cassetta del suo ultimo disco, sì. Guarda. Sì, ora negli Stati Uniti vanno tantissimo le cassette. No, non è vero, perché tu dici sì, calma, perché ascolta, nell'ambiente hardcore o punk hardcore sono sempre va molto di moda fare le cassette. Sì, certo, quelle sono sempre andate, però ora, capito, questi cantantelli, questi hanno detto negli Stati Uniti vanno queste cassette, ristampano le cassette, quindi ristampano le cassette. Comunque questo gruppo ha solamente stampato, per modo di dire, ha inciso, per modo di dire un'altra volta, una sola cassetta nel 1975, e una specie di bootleg, no? Perché comunque è da ascoltare, è una cassetta da ascoltare, un disco da ascoltare. Cassetta o disco? No, sì, è vero, una cassetta. Mix. Comunque, diciamo, si chiama... Il side A in disco, side B in cassetta. Sì. Non lo Vabbè, so, chiedo. Mi sta mettendo bastoni tra le ruote. Dei sensitiva immagine. Hai messo il pezzo... Proguno, sei pronto? L'ho preparato. Sei pronto? L'ho preparato. Quindi, i Sensitiva Immagine, con la loro unica cassetta, e tutto cominciò così. E qual è il pezzo che mandiamo? Il pezzo che mandiamo è... Overture. We'll be right back. Ok, salutiamo i Sensitiva Immagine che sono stati presentati biograficamente da Prog 12 e mezzo e vi diamo il prossimo gruppo che presentiamo sono gli Spettri che seguendo in qualche modo quello che è la tradizione prog Made in Florence. Ti piace Made in Florence? Ma chi sono questi spettri? Diccelo. Gli spettri praticamente, come tanti altri gruppi, vengono vengono da... Dal beat? Chiedevo. Mi hai spiazzato. No, chiedevo, vengono dal beat? No, vengono dal Dark New Wave Soul, Northern Soul italiano. Quello è stato dopo. Dark Wave purtroppo è stato dopo. Arriva qualche anno dopo il Dark Wave, anche no, Northern Soul è più o meno contemporaneo, però vabbè. Questa scena l'approfondiranno i DJ che si susseguiranno, che sostituiranno la fantastica postazione della Wombat Radio. No, non la devono sostituire Prog 12, vero? No, noi rimarremo qui incatenati. Noi il martedì dalle 19 alle 21 rimaniamo qui. Okay. Poi quello che faremo non si sa, però rimarremo qui. Vabbè, però a inizio puntata abbiamo detto che questa era l'ultima puntata del rovescio della medaglia. È l'ultima puntata, poi faremo una pausa. Il 10 gennaio faremo una pausa e poi riprenderemo ovviamente il 17 gennaio con uno speciale, due speciali, tre speciali. Non erano due? Ce ne facciamo tre. Tre speciali su la prima puntata su Emerson, Lake e Palmer e poi sugli Area. E la terza qual è? E la prima, la seconda su Emerson, Lake e Palmer. Ah, okay. E la terza sugli Area. Ah, ok. No, non mi torna qualcosa, ma va bene. No, non torna niente. Cioè, ora devo condividere con Prog 12, devo condividere punto e basta. Va comunque, bene. Qual era il prossimo gruppo che stiamo presentando? Il prossimo gruppo che presentiamo sono gli Spettri e continuiamo con la, diciamo, quella che è stata la scena fiorentina del prog italiano dopo il Campo di Marte, i Bella Band che avete avuto modo di ascoltare nelle precedenti puntate. E gli Spettri si nascono nel 64 proprio in Firenze City, ovvero nella culla del Rinascimento. E fatti cazzi tu a Prog 12. Vabbè, stavo leggendo quello che leggevi te, scusa. No, io non sto leggendo nulla, questa è parte della mia memoria storica. Va bene. È parte della mia memoria storica. Cioè, ti ha invitato Stefanino stasera a fare due chiacchiere con lui, parlate delle vostre faccende. Va bene, vai avanti con la storia di Firenze. No, era il 1500. Sì. No. La culla del Rinascimento la lasciamo agli storici, tipo Giannetto, tipo personaggi vari che si occupano della storiografia, della storia artistica rinascimentale di questa città intrisa di cultura e di arte. Io sto parlando degli Spettri, che è un gruppo che si è formato nel 64, e anche loro, come tanti altri gruppi prog che abbiamo presentato nelle precedenti puntate, vengono da quella che è la cultura beat dell'epoca, ossia una sorta di... Il beat cos'era? Una musica leggera, Prog 12. In effetti, se ci pensiamo, nelle precedenti puntate abbiamo un sacco di volte menzionato la musica beat, gruppi beat, però non abbiamo mai detto cos'era il beat. No, la musica beat era, non lo so, comunque una, derivava dalla musica rock, dal rock and roll. Karaoke. Dal rock and roll, dal rock and roll in maniera più pop. Pop come si diceva allora, pop, musica popolare che non aveva l'accezione di ora della musica pop che era commerciale, ma della musica pop nel senso di popolare. Devo rispondere o posso... No, vai avanti. Come si chiamavano? Stavo parlando degli spettri, però siccome hai capito... Prog 12, ascolta, cioè, io sto esposto un concetto, siccome nel resto del, diciamo nelle nove, visto che ora siamo alla decima puntata del rovescio della medaglia, quindi nelle nove precedenti puntate... Ah sì, gli spettri, come si chiamavano i componenti del gruppo degli spettri? Te lo dico subito, un attimo. Allora, c'erano i fratelli Ugo e Raffaele Ponticello, che era insieme al bassista Giuliano Giunti. Quindi, capito? Cioè, che poi, Prog 12, a te che te ne fute? No, così, cioè, per sapere un po'... Cioè, voglio dire, te non hai mai approfondito il nome dei componenti dei singoli, di tutti i gruppi... Ma te lascia fare quello che faccio io. Di tutti io. I gruppi fino alla lettera S, nel nostro caso la S come spettri che abbiamo presentato fino a oggi. Te ti prendi una patetica rivincita, ok, va bene. Ma dico, insomma, però le sfide le stai facendo te, non io. Eccoci, bene, ora vabbè. Non è così, cioè gli spettri, ora se mi lasci continuare... Prego. Posso... Prog 1. Ecco, Prog 12 è partito ora, incazzato, fra poco, quando partirà il pezzo mi dà due labbrate che mi stendo in terra. Comunque, meno male che c'è Stefanino che sta qui a mediare, a dire oh calma ragazzi, ricordatevi che c'è qua uno dei Prog Addict per eccellenza e quindi calma. Allora, il prossimo gruppo che presentiamo sono gli Spettri, come vi ho detto prima, quando l'inopportuna, nonché arrogante, nonché vile partecipazione di Prog 12, questo gruppo che sono il fiorentino, che sono gli Spettri, praticamente... Loro escono con un unico album omonimo del 1972, che propongono una sorta anche loro di una sorta di concept album, che uscì nel 1972, di cui abbiamo scelto due pezzi, che è l'introduzione e poi... Poi ve lo dico subito anche la parte prima di questo album, di questo concept album, di cui mandiamo l'introduzione, che è una sorta di presentazione vocale dell'album, e la parte prima che si chiama Stare Solo, e loro sono gli Spettri, e buon ascolto, enjoy, come direbbe Prog 12. Il vero significato di questo testo è un'aperta critica alla società odierna, che trasuda di egoismo e ipocrisia. In essa stanno scomparendo tutti i valori umani che porteranno inevitabilmente l'uomo nell'abisso. Un uomo, disgustato appunto da queste bassezze, si rifugia in un dialogo con il mondo metafisico. Egli però, comunicando con l'oltretomba, spera di riuscire a trovare risposte, rimedi contro i mali che affliggono l'umanità, ma non ottiene nessuna indicazione utile se non risposte enigmatiche che hanno in fondo lo stesso significato. L'uomo si è illuso, dopodiché impazzisce. I brani sono Stare Solo, Medium, Essere e Incubo. Lasciamo su questo assolo di chitarra molto hendrixiano, oserei dire, Prog 12, sappilo che hai il microfono aperto, sicché sì, certo, molto hendrixiano. Io ripeto, è finito così. Però ci è piaciuto questo pezzo, ci è piaciuto. Dai, Prog 12, dici il prossimo gruppo che presentiamo, toccava a te. Il prossimo gruppo si chiamano i Trip, e la cosa interessante The Trip e la cosa interessante che nella prima formazione faceva parte Richie Blackmore. Chi era Richie Blackmore? Richie Blackmore era il chitarrista di Deep Purple e di tutte varie formazioni. Questa tipo, era una cosa... Tipo i Blackmore's Night? Sì, i Rainbow anche, no? No, i Blackmore's Night. Cioè ancora le cassette di... Anzi, la cassetta dei Blackmore's Night, che era un progetto di Richie Blackmore. Questo era nel periodo precedente. Poi dopo... nella formazione prog non ci sono più tracce di Richie Blackmore, però facciamo sentire è morto, si è dato la latitanza, ha fatto altre cose, spero meglio, però non da latitante, no sempre aveva una sorta di è sempre tra noi. Quindi dei Trip mandiamo immediatamente Caronte. Dici qualcosa. Il primo 12. Dici qualcosa dei Trip. Il primo album. La cosa interessante è che ci suonava nel periodo beat Richie Blackmore. Del primo album mandiamo Caronte. Perché degli altri album cosa vuoi mandare? Non lo so, intanto mandiamo Caronte del primo album. Caronte 1 o Caronte primo? Perché... No, Caronte primo. Tipo Caronte primo. Tipo nome del 1971. Nome reale, no, tipo no, non è che l'ho inventato, prima, si chiama Alessio Caronte primo. Caronte primo. Un titolo di denominazione reale. Sì, no, non è che l'ho inventato io, si chiama Caronte primo da The Trip. Prog 12, c'è Stefanino che giustamente corregge. Che cosa ha detto Stefanino? Stefanino, fatti avanti, partecipa con noi. No, ha detto, che cosa ha detto? Allora, lo prendiamo come buono. Stefanino, intervieni. Caronte primo, quello che veniva prima di Caronte secondo. Perfetto, allora vi mandiamo subito Caronte primo, quello di Caronte prima di Caronte secondo. I can do just what I feel I want to with you. If I want your heaven, hand it to me, my dude. Universe come away in broken places. Ok, abbiamo... Abbasso un po' il volume del mio microfono perché Prog 12 è un po' preso dall'ansia dei troppi minuti. Che... No, che cazzo dici? Ti spacco la testa. Erano un po' i troppi minuti che... No, in qualche no modo ma quali troppi minuti? Va tutto bene. Erano un po' i troppi minuti che contraddistinguono la sua mancata lettura del libro del Kama Sutra. No. Aspetta, prima di presentare l'altro gruppo vorrei salutare Roberto e Francesco degli Zundapp, che è un gruppo che presenteremo dopo, però insomma ci stanno ascoltando, quindi gli volevo dire che ci siamo. Con ansia. Prog 12 con eccessiva nonché delirante ansia. Prog 12 vuole arrivare alla Z. Arriveremo, calma. Abbiamo presentato i Trip, di cui ho fatto una sorta di miscela di suite autoprodotta che finora non avete ascoltato mai, perché tutte le suite autoprodotte che abbiamo fatto finora riguardavano il singolo album del gruppo in questione, mentre per quanto riguarda i Trip abbiamo fatto un'eccezione, visto che siamo all'ultima puntata ci concediamo in tutte le nostre più svariate e fantasiose espressioni DJ e non, e quindi ho fatto sotto pressione di Prog 12 e mezzo, ho creato una sorta di suite che praticamente rientrava nell'intera produzione discografica dei Trip, perché mi ha detto fatto tutti i Trip, ci siamo presi tutti i Trip insieme. Facciamo i Trip in un'unica suite autoprodotta, come per quello che in cui ci contraddistinguiamo. E li abbiamo sentiti tutti questi Trip. E quindi siamo partiti dal primo fino all'ultimo album, ossia The Trip, Caronte, Atlantide e Time of Change, ossia abbiamo fatto un excursus musicale che ricopriva praticamente tutta quella che è stata la produzione discografica dei Trip. Il prossimo gruppo che andiamo a presentare, come siamo soliti, mi piaceva questa formula. Come siamo soliti, e il prossimo gruppo che presentiamo sono i Triade, che anche loro, stasera Prog 12 stiamo peccando quasi di campanilismo. Perché i Triade sono di, dillo, sono un gruppo di... Siena? Di Siena, davvero? Non è vero. Invece no, questo gruppo è di Firenze, anche Foggia. Triade. No. A Foggia purtroppo, a malincuore, no, non c'è stato nessun gruppo proprio. Un gruppo di Firenze. Cioè ci sono state altre figure in qualche modo rappresentative del diciamo di quello che era la scena alternativa, però non riguarda la scena prog, quindi mi dispiace, ma del foggiano no, posso in qualche modo evidenziare figure storiche del foggiano, ma che non riguardano il prog, purtroppo è così. Purtroppo è così. Quindi io manderei il prossimo gruppo. Manderei. Devo ancora presentarli, Prog 12. No, scusa, perché... Prog 12, calma. Ora presentiamo un attimo i Triade, che abbiamo finora. Certo. L'unica nota a loro riguardo è che sono fiorentini. Poi non abbiamo detto più nulla a riguardo, quindi... in qualche modo presentiamoli questi triade. Ma forse le note dicono più di tante parole? Ma questi sono luoghi comuni, capito? È come dire, vai, mettiamo i Pink Floyd, sediamoci sul divano e viaggiamo. No, no, no, non è così, capito? No, a noi ci piace. Stasera non lo so se a noi o se a me mi piace presentare o fare come da tradizione del rovescio della medaglia, via. Sì, certo, presentiamo i gruppi e poi ve li facciamo assaporare piano piano, un po' alla volta. che ne dici, Prog One? No, Prog 12, allora, questo è un invito a nozze, ossia... Prendiamocela con calma, calma, presentiamo tutti i gruppi, non... tanto, cioè, stasera è come l'ultima puntata, no? Non abbiamo fretta, non... stiamo sforando quasi le 2 ore di diretta, ma va bene così, poi prendiamocela così, portiamo a fine la nostra fantastica scaletta, la nostra fantastica playlist. Perché così era scritto, così, capito? Cioè, nelle scritture sacre c'era scritto che l'ultima nonché decima puntata del rovescio della medaglia avrebbe sforato tutte le aspettative temporali e non dei nostri radio, si può dire, sì. Radioascoltatori? Certo, si può dire radioascoltatori e anche online ascoltatori, online, come si dice? No, etero ascoltatori. Quindi questo è un invito ufficiale a dire a Prog 12 che se non si dà una calmata ora gli do una palata in capo, porca madonna e porco dio, che ti rilassi, ti dà una calmata e portiamo a fine la nostra scaletta fino all'ora che arriviamo, mi importa una sega. Arriviamo a quell'ora, suoniamo i nostri pezzi e buonanotte. Poi la prossima volta si vedrà come sarà. Beh, va benissimo così. Ora già so che quando manderò il pezzo mi darà due labbrate. Beh, che mi stanno legnata. In terra, però no, vabbè. No, gliele do in diretta. Ok, allora, dicevamo, i triade, come abbiamo detto, escono con... I triade anche loro escono con un unico album che si chiama maledetto, no, come maledetto. Si come si chiamano? I triadi, non lo vedi, mi fai pure confondere. I triade escono con un unico album che si chiama 1998 due punti la storia di Sabazio. Di cui noi datemi il fantastico tablet da cui okay. Anche il beneficio del dubbio ti diamo, se vuoi. Va bene, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Di cui io personalmente, Prog 1, ho scelto due pezzi, però ora nel frattempo che mando il primo, lascio a Prog 12 decidere se manderò pure il secondo. Ora, no, intanto... no, certo, vai come vuoi. Cioè, è un'ipocrita affermazione, perché fino ad ora mi ha minacciato, però comunque io ho scelto dell'unico album dei Triade due pezzi, di cui... sono Il Circo e Caro Fratello. Se ascoltate solo un pezzo sarà colpa di Prog 12 e un quarto o 42. Domanda. Enjoy. Ok, loro erano i Triade, come ricordiamo ancora, uno dei tanti o pochi, dipende dai punti di vista, gruppi di Firenze. E avete appena ascoltato il Circo, e il prossimo gruppo, che si chiamano Gli Uno, che sono usciti con un album omonimo nel 1974. Questo gruppo nasce dalle ceneri degli Osanna, dei famosi Osanna, che è gruppo da personalmente preferito, si può dire preferito, di Proc 1. Uno dei grandi gruppi presentati in questa trasmissione, sì, di Osanna, non lo so, che diciamo, facciamo sentire subito il primo brano degli Uno. Sì, Prog 12 è inavvicinabile, quindi vi mando subito degli Uno. Ho scelto un pezzo che si chiama Popular Girl, dall'unico album omonimo del 1974. Anche questo è un album omonimo? Sì. No? Omonimum, sì, è un sì, no, omonimo omonimo, che si chiama, il pezzo che ho scelto si chiama Popular Girl, che c'ha un inizio un po' particolare, un po' strano, tra funky, blues e jazz, e poi diciamo da dalla metà del pezzo e va a sfociare, va a finire nelle sonorità più tradizionali e tradizionali e non ruttanti, tradizionali e ruttanti, un po' ruttanti, neologismo. L'Accademia della Crusca ne farà tesoro di questo mio neologismo. Loro sono Gli Uno, dall'album omonimo 1, Popular Girl. Popular Girl. Yes, the McMahon, friends, Ebbene, questi erano gli Uno con Popular Girl. E ora per finire, siamo arrivati alla lettera Z, e per finire avrei piacere e modo di presentarvi un gruppo contemporaneo, quindi un gruppo che suona o che più o meno suonava in questi anni, che sono gli Zundapp, un gruppo della provincia di Siena, precisamente del sud della provincia di Siena, tra Montepulciano, Chianciano e limitrofi, che questo disco, se non sbaglio, è del 2009, e comunque loro hanno suonato tra il 2009 e il 2013, 2014, comunque che hanno fatto hanno avuto un'interessante vita live, con dei concerti nella provincia di Siena molto, molto interessanti, e hanno prodotto questo disco che si chiama Sotero, del 2009. Vorrei ringraziare, perché sinceramente li conosco personalmente, vorrei ringraziare Francesco Moreno, Fabrizio e Roberto, che hanno prodotto e hanno suonato questo disco. Comunque, dici pure nei ringraziamenti chi ci sono. Ah, nei ringraziamenti, ovviamente, per il disco ci sono i preziosi ringraziamenti per i disegni di Benny, di Alessandro Cristofori per le registrazioni mix e mastering, Vasco Rossi per averci dato una sala prove e tutti gli amici per il sostegno. La musica, Moreno ringrazia Cinzia per la sua pazienza. Quindi c'è anche Vasco Rossi in questo, sì, che partecipa, sì, c'è, indirettamente, c'è anche, in questo album. C'è anche Vasco Rossi, che credo sia il padre di Francesco Rossi, il bassista. Quindi è un'omonimia insolita, via. Non lo so, forse è Vasco Rossi quello ufficiale, gli ha dato una sala prove, non lo so come. Comunque, questo album si chiama Sotero e loro sono gli Zundapp, ricordo i nomi, sono Francesco Biagianti alla batteria, Francesco Rossi al basso, Moreno Mencarini alla chitarra, Fabrizio Brilli alla chitarra, Roberto Chechi, flauto dolce, traverso e vibrafono. Questi sono gli Zundapp e vi presenteremo tre pezzi. Thank you. Ok, bene, bene, bene. Questi erano gli Zunda Up, un grandissimo gruppo contemporaneo, perché comunque hanno solcato i palchi della Toscana fino al 2014-2013, non lo so, ora sono sciolti, ma spero che comunque possano darci qualcosa in più in questi anni, no? Potrebbero rimettersi insieme e fare un po' di prog, così almeno danno anche la possibilità di fare un'altra trasmissione. No, magari facciamo magari che ne so, decidono di venire qua direttamente negli studi di Radio Wombat o Radio Wombatti, versione international. Qui siamo sempre sul rovescio della medaglia su Radio Wombat. E possiamo approfittare per salutare tutti ora, no? Sì, certo, salutiamo tutti. È finita questa lunga e travagliata ultima puntata del rovescio della medaglia. Però vi ricordo che ci troviamo il 17 gennaio. 17, sì. 17 gennaio con una puntata speciale su Emerson, Lake e Palmer. Sì. Cominciamo da Emerson, Lake e Palmer. Sì. Sì, sì, sì. Lasciamo decidere al nostro giudice esterno, Stefanino. Stefanino, intervieni. Stefanino ha detto Emerson, Lake e Palmer. Lui non vede l'ora di sentire una puntata su Emerson, Lake e Palmer. Sì, perché come abbiamo detto è l'ultima, diciamo, no, non è l'ultima, una delle ultime nostre puntate di questa collana, di questa serie radiofonica, tipo potete ascoltarci anche su Netflix o no? No, su Netflix ancora no, ma ci potete ascoltare tutti i podcast registrati su wombat.noblogs.org. Sì, o su Twitter o su Facebook potete trovarci e ascoltare tutte le puntate che già da domani saranno online i nostri podcast. Sì, chiudiamo in bellezza con KNC and the Sunshine Band con Shake Your Butte. E ringraziamo ancora Roberto e Francesco e tutti gli altri degli Zundap per la disponibilità che hanno dato per mandare i loro brani così in scioltezza, diciamo. In tranquillità, oserei dire, no? Allora, sì, poi dopo i diritti glieli paghiamo sotto banco. Quando ci troviamo, becchiamoci al casello dell'autostrada e vi si dà il dovuto. A quale autostrada non si dice, ma becchiamoci al casello e vi diamo le royalty, come si dice. Grazie di nuovo. Ringraziamo ancora Stefanino che per la sua gentile e elegante presenza, che ha scelto di presenziare l'ultima puntata del rovescio della medaglia, visto che era uno degli ascoltatori storici della nostra trasmissione. Quindi stasera dietro compenso, cospicuo compenso, ossia non è che Stefanina l'abbiamo trascinato qui per i capelli, l'abbiamo trascinato. Stefanina ha detto bene, io e poi ovviamente ringraziamo, lascio tutti i miei aperitivi, i miei appuntamenti della serata, vengo da voi, però mi pagate, e quindi Stefanino è venuto e è intervenuto come avete avuto modo di ascoltare durante la puntata, che è intervenuto con la sua timidezza, con la sua proverbiale timidezza e riservatezza o slash riservatezza proverbiale, dovendo sì, usare un linguaggio html.it. Comunque io vorrei ringraziare soprattutto Ginox, perché senza Ginox tutto questo non sarebbe stato possibile, e Bloody Mary lo stesso, perché senza di lei non sarebbe stato possibile tutto questo, che hanno allestito tutta questa radio, e tutti coloro che hanno collaborato a queste trasmissioni, quindi tutte le altre regie che sono connesse con Radio Wombat, quindi la Fuoco alle Polveri, la Revancia, tutte le trasmissioni che sono, diciamo, che sono connesse in questa rete di Radio Revancia, Wombat. Non Revancia, Revancia. Revancia. Revancia. Scusa, no. Però comunque mettimi un pezzo finale un po' drammatico. No, non è drammatico. No, dai, mettimelo un po'. Un po' drammatico. Mettimi subito un pezzo. Perché così senza... Io mi immaginavo tutto un pezzo, che facevo questi saluti. Sì, con però... un pezzo, invece non no, ci no, sono. Io mi aspetto prima il saluto di Stefanino e poi parto. E poi il grande Stefanino. Un saluto a tutti e grazie a voi di avermi permesso di stare qui, è stato bellissimo. E sinceramente, fatemelo dire, mi mancherete. Ma noi no, e no. Un bacione a Nenia, questo era... Un bacione a Nenia, questo è l'ultimo saluto, ma noi non vi mancheremo mai, ma perché continueremo con queste trasmissioni, non la prossima settimana ma quella dopo, quindi non il 10 ma il 17 gennaio, con degli special post Natale, post Capodanno. Magari, che ne so, la prossima settimana potremmo mandare un riassunto delle, sai, the best of, no? Ma... Tipo, hai visto, che ne so, negli anni, nei tardi anni 90 uscì the best of U2. E ora noi facciamo uscire the best of, il rovescio della medaglia, ma forse anche no, ma è meglio di no. Vabbè, su però Radio facciamo Wombat uscire, perché questo fa, cioè, tipo fa in qualche modo... Shake. No. No. E no, non mi mette sto pezzo, cioè il DJ non mi mette sto pezzo. Vabbè. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie, ci vedremo tra due settimane con uno specialone su Emerson, Lake e Palmer. We'll be right back. shake, shake, shake, shake, shake, shake.